non so come lo fa la roba, io ce l'ho in mezzo, non so come lo fa il salsiccione. Già lo so, tu lo sai molto più di me, però dipende anche dallo scrupolo e dall'onestà di chi lo fa. Però c'è di tutto di più, come ho visto fare il suo in certi posti, in certe mense, in certe cose, da amici, mentre in ospedale ci aggiungono lo zucchero, quando è acido, poi lasciamo perdere altre cose, ce n'è di tutti i colori. Purtroppo il progresso è così, il consumismo e la gente te lo dice, perché se vai a mangiare quei McDonald's, cose del genere, ti credi che sia roba fresca e genuina? I panini, ho visto un furgone carico di pane, delle catasse di panini tutti uguali, fotografati, fotocopiati uno con l'altro, arrivavano con i sacconi grandi dentro queste cose qua congelate. Magari tu cosa ne sai che nel passaggio del congelamento l'hanno tenuto fermo fuori, oppure dopo si è riscongelato e l'hanno ricongelato, cosa ne sappiamo? Però se la rischi, purtroppo è così. Avanti Carlo. Comunque se si c'è un bel grasso, ho detto, non molto grasso, ma io prendo quello sottile sottile già, ma lo faccio proprio a sciogliersi, quando lo metto a cucinare deve essere proprio sciolto, secco. Grazie, che io chiudo, è tutto, che ho la mia parrella da telefono. Signori, state bene, è rimasto Carlo, Gianni, Roberto, poi chi c'è altro abituale d'ascolto che mi sono dimenticato, sentite che ho salutato. Ok, alle prossime, state bene, ma proseguo, ciao a tutti. Ciao, ciao Tonino, buona carica quando la fai, che io fra poco chiudo. Avanti Carlo. Yeah, ciao Tonino, ci risentiamo prossimamente. Sì, no, il salsiccione, se sai chi lo fa, a volte lo fanno nelle macellerie e già lo fanno bene. Ad esempio alla Conad vendono quello fatto a Belleville, vendono la salsiccia di Belleville e fanno anche il salsiccione, ed è diciamo roba genuina, comunque già è roba controllata. Poi quello che usano, il salsiccione, il budello che usano è spesso quello diciamo non naturale, ma l'altro, capito? Ma quelli ormai quasi tutti nella produzione industriale, anche se fatto bene, però usano, e del resto anche i Wustel, quello è proprio di provenienza incerta, non sai cosa c'è dentro, ma il salsiccione, quello che abbiamo noi, che lo vendono o nelle macellerie o anche a livello di distribuzione di supermercati, è controllato, ci sono i sigilli, i timbri veterinari, e non è troppo elaborato, capito? Vai Gianni. Allora, un colorante ce lo mettono rosso per coprire il colore del grasso, in modo che ti sembra che sia magro e non si vede il grasso, colora il grasso e sembra carne, capito? Mettono quel colorante lì, lo mettono, poi ci mettono diverse spezie, vabbè, comunque di porcheria ne mettono avanzi di carne, grasso, tutti i pezzi che avanzano, non so cosa fanno, non vedevo quei migliori. Ma se tu conosci il macellaio di fiducia, te lo fa così come fa la salsiccia, fa il salsiccione, capito? La stessa cosa, solo che dovresti fare una ricerca, insomma, accurata, e alla fine non esci, qualche volta devi fare il compromesso con la fretta e diciamo la vita di tutti i giorni, molte volte passi veloce al supermercato, alla fine acquisti anche quello prodotto a livello industriale, cercando di prendere diciamo il prodotto migliore, tutto lì, però è importante cucinarlo, la carne è sempre ben cotta e non ci sono rischi. A me piace anche il capocollo, lo faccio nella piastra e lo faccio bello secco, diciamo, nel senso ben cotto con la crosticina sopra, ed è un bijou. Il capocollo di maiale a me piace tantissimo, la verità. A mangio carne di cavallo, me la metto prima a prendere, a saporirsi, li metto prezzemolo, aglio, peperoncino, poi la cucino, però la cucino, te l'ho detto, le do due girate e poi la mangio così, perché se no sola di botti non mi piace. La carne di cavallo in effetti non va troppo cotta, è quella, la devi giusto colorare, ma solitamente sono fettinette sottili, quindi gli dai due girate e cucina subito. Anch'io l'ho mangiata ed è bella saporita, è anche buona. però non è che ci vado matto, capito? Preferisco sempre una fettina di manzo, insomma, cose del genere. La carne di cavallo è dolce, se tu la sai condire bene, compriamo l'aglio, peperoncino, un po' di olio, sale, io la metto in frigorifero, la faccio insaporire bene e poi la cucino, la lascio anche un giorno così. E poi quando la cucini mi dici vero? Lo credo, insaporisce bene bene, però ripeto, sempre cotta bene la cosa, io la preferisco. Roberto è lo stesso, no? Roberto, confermi. Ah, ti ripeto, io carne non ne mangio nulla, si può dire, posso assaggiare il petto di pollo impanato, ma sottile sottile, fatto come dico io, il pollo arrosto, quello di rosticceria fatto bene, oppure cucinato col vino da chi lo sa fare, come l'ha fatto mio cognato, proprio che lo lascia tutta la giornata col vino, ci mette le olive, buonissimo, lo fa col perie. Però non mangio coniglio neanche a vederne, agnello neanche a vederne, maiale neanche a vederne, cavallo. È capitato qualche volta, stavamo da questo amico in via Grazia Veleda, quando lavorava alla radio, lui allora è pranzo, andavamo a prenderci il panino da Nino di fronte alla Radio Ulide, ci faceva i panini proprio scaldati bene, le focaccine, ci metteva la carne di cavallo, come la dicevo io, però dicevo a sola di scarpa, e l'antuna sopra al rosso, un po' di sale in abbondanza, così era buona, ma se appena appena grossa non ne mangio più. E io lo stesso, io sempre ben cotta, io se vedo la roba color sangue così chiedo di rimetterla al fuoco, capito? Un sacco di volte è ben cotta la bistecca, sì sì, e poi te la portano e invece non è ben cotta. Io non dico che la voglia come il sughero, capito? Però la tendenza a volte è quella di dargli due giri e poi magari dentro è tutta sangue sangue, così io non riesco proprio a mandarla giù, capito? Però sui gusti non si discute, c'è chi la gradisce invece così e non ci possiamo far niente, così e basta. Confermi già? Sì, io rispetto sempre il parere di tutti, ognuno ha i suoi gusti, i suoi modi di pensare, io rispetto anche quelli degli altri, ci mancherebbe altro. Però se mi porti il pesce io te lo mangio in tutti i modi, forse solo i serpenti, il coso, la murena, il grombo, quelli non li mangio, non è che non mi piacciono, però preferisco mangiare. Però se tu mi porti un bel sarago, come dico io, da 300 grammi, 300-400 grammi, fatto al cartuccio, una bella orata, lentice, razza, ricciola, poi non parliamo di tutti i gamberi, mi faccio a poco, tutti i crostacei, da iniziare a mangiare, ti posso dire, i molluschi, tutto, quello ti mangio tutto, proprio con piacere e in abbondanza, le cose gratinate, più i gamberi più della ragosta, ti devo dire, però mangio tutto, i granchi un po' di meno, non è una cosa che mi attira, però li mangio lo stesso. Però carne sono un po', diciamo, schizzinoso, dai, anche se devo dire molte volte quando vedo quel profumo del porcetto, che nel maiale tossato che lo fanno in terra, oppure con quegli spiedi, non ci sono le sagre che sono invitati, però non mi piace, non ne mangio, dai, me li guardo che li mangiano gli altri e io niente, vai già. Non sai cosa ti perdi, Roberto. vabbè, questa è di gusti, dai. Anche io il pesce crudo, ti ripeto, i miei figli lo mangiano, il salmone crudo, arrotolato e messo insieme alla Filadelfia, col riso e praticamente guarnito con l'alga marina, eccetera eccetera. Io quello non lo voglio, mangio solo la roba cotta, e ti dirò che ci sono verdure, ci sono cose che sono molto buone, anche le alghe ho mangiato, le alghe di mare, lo sai quanto sono buone in salata? Io cose del genere non ho mai assaggiato, so che fatte così dice che sono ottime, però non mi va a me di mangiare alghe e cose del genere, perché mi sembra una cosa poco conosciuta, e capito, si tratta di insalata, volentieri qualsiasi tipo di insalata, ma non le alghe. So, però non bisogna stare sempre gli stessi canoni, bisogna trasgredire qualche volta anche nel cibo, no? Io la assaggiate un pezzettino, Marco me l'ha fatto assaggiare, dice papà assaggialo, se ti piace lo ordiniamo, tanto lì puoi ordinare quante volte vuoi, paghi sempre la stessa cosa, capito? Puoi ordinare anche due, tre volte, da tre parti, ma io non sono di quelli, io arrivati a quel limite poi dico basta, non è che... Beh, fatto sta, me l'ha fatto assaggiare, mi sono piaciute e me l'ha ordinate. Poi c'è una salsa che mi piace particolarmente lì, ed è la salsa in agrodolce, è buonissima. È l'unica salsa che mi piace, quella di soia non mi piace. Metto tutte le cose, io le bagno con questa salsa, è buonissima. E poi ci sono anche ravioli a vapore, tutte queste cose qua che sono molto buone. Ma io l'ho assaggiato, il sushi anche a me non mi ispirava, perché sono andato in un ristorante cinese una volta in Grecia con amici, non c'ero mai andato perché non mi ispirava. E per non essere un orso sono andato insieme agli altri e abbiamo mangiato queste coscette che non so di che cosa erano, se erano di rana, di che cosa erano, però erano buone, erano fritte e tutto qua. Solo che poi sono stato una settimana che andavo in bagno, non ti dico altro. Poi però i cinesi non ci sono più andati, dai giapponesi invece non mi ha mai fatto male. Evidentemente c'era qualcosa di magari di poco pulito e molte volte sì, è capitato anche ai miei colleghi che ci sono andati, so che sono stati male al ristorante cinese e anche diversi giorni come hai detto tu, o usano magari qualche pietanza che non è ben conservata o qualcosa di scadente a livello anche di pesci, perché è un attimo a deteriorarsi quella roba lì, cioè una volta tolta dal frigo con le alte temperature in cucina parte subito, quindi a volte bastano anche che le mosche ci vadano sopra se non c'è pulizia eccetera, è un attimo davvero. E invece quando la cosa è ben cotta, secondo me è più difficile che ti prendi anche infezioni intestinali, capito? Molte volte sul crudo si rischia. Sì, quello sì, se sembra di dubbio. Ma infatti io prendo quei cerchietti dove c'è il riso dentro, verdure, praticamente per guarnirlo, per chiuderlo usano le alghe, capito? Sono alghe, ma sono buonissime, ti sto dicendo che non è niente di cattivo, sono molto buone. Ci mettono, usano anche molto il cocco, tutta questa roba qua. Io l'ho mangiato diverse volte, sono andato da Cocco perché mio figlio li gira tutti e reputava che Cocco era il migliore che c'era a Sassari. Poi hanno aperto questo qua del 1926 e mi ha detto papà, è un abisso, questo qui è bravissimo, questo è poi veloci servendoti, veloci, sorridenti, insomma mi è piaciuto come servizio. Non lo metto in dubbio, sì, però ripeto, io preferisco, ci sono andato anche io e non sono uno che non trasgredisce, ecco, a volte mi propongono qualcosa che non ho mai mangiato e l'assaggio, poi se non mi piace non la mangerò più, capito? Però già assaggio un po' tutto, forse le avevo assaggiate anche io quelle alghe che stai dicendo tu, che le mettono, le usano per chiudere qualcosa che fanno eccetera, mi è capitato, l'ho assaggiata però non l'ho trovata qualcosa di eccezionale evidentemente, quindi non le ho più mangiate, capito? Poi io sono per le cose classiche, pizza, fainé, capito? Carne arrosto e così via. Sì, vabbè, sì, anche io, però ogni tanto cambiare. I miei figli mi hanno chiesto andiamo papà, io andiamo per passare una serata diversa e via. Idem, quando l'ho fatto che ero... I ragazzi amano questi locali qua di cibo cinese, insomma, sushi, queste cose. Molte volte, io accompagnami, c'è questo, c'è quell'altro, andiamo, c'è anche il padre di questo, quell'altro, già lo conosci qui. E ci sono capitato così per caso, capito? Però mi sono seduto, già ho mangiato, vai lì, insomma ci sono talmente tante cose che alla fine riesci a farti un piatto anche bello abbondante e mangiare anche le cose cucinate bene, cotte bene soprattutto. Vai Robe. Allora, visto che avete gusti particolari, soprattutto Gianni l'avevo voluto portare alla Fiera d'Oriente a Cagliari, che la fanno 3 volte in Italia. Quest'anno, siccome ha rinunciato Milano, l'avevamo fatta nel 2018, l'hanno fatta a Cagliari, che è una cosa spettacolare, una cosa bellissima, cioè se non vai a vederla non ci credi, tra cui tutti, a parte i costumi e tutto quello, le culture, che vedi proprio gente del posto, per dire, dalla Mongolia a finire a Bangladesh, Nepal, Bhutan, cioè tutti i paesi dell'Oriente, lo stand giapponese, lo stand cinese, bellissimo, una cosa da vedere, tutto roba vera, non fotografata, cioè vedi le persone, gli spettacoli cinesi, gli spettacoli giapponesi, cose da paura. E c'erano le cucine di tutti i posti, per dire, da quella del Vietnam, dalla Thailandia, e tu devi vedere il mischio, quando si mischiavano gli odori, era una cosa, mamma mia, e c'era la gente che si comprava questi piatti con queste erbe, non so se cavolo, tipo alghe, così, e più c'erano le larve, c'erano tipo quando tu vai a prendere le caramelle, le avete mai viste con le mancarelle, con la paletta ti prendevi le larve, le cavallette, le cose, mamma mia, io quando l'ho guardata mi è venuto un coso, un blocco, vedere le cavallette dentro un contenitore grande, centinaia e centinaia di cavallette e poi centinaia e centinaia di, per non dire migliaia di larve, poi c'erano quelli che ti facevano queste specie di brodaglie tipo minestrone, chissà cosa era, boh. Alla fine c'avevo fame, sono andato a questo qua, l'unico stand italiano, ti facevano da Bologna, sono venuti, ti facevano questa focaccia, spianata di Bologna si chiama, è tipo la spianata nostra, però rimane un po' grossa, con la pancetta, non con la pancetta, ma fatta col prosciutto crudo di Parma, ma una cosa da paura, con la rucola e del formaggio, del parmigiano, ma era una cosa, ne ho preso 2 di queste, cioè 2, una l'ho dovuta tagliare in 2, talmente era grande, ma mangiata con gusto, e tu vedi la gente mangiava tutte queste prelibatezze, cosiddette prelibatezze orientali, ma diventavano scemi tutti facendo la fila, una cosa, ma Gianni si sarebbe trovato bene, vai già. No, guarda, roba sbagli. Se avessi visto le cavallette non avrei più mangiato, no? Quella roba lì, trasgredire, sì, ma ci sono delle cose che mi ripugnano, non è proprio, non le mangio a partire, proprio a priori non le mangio. E le vendevano anche a Città Mercato le cavallette fritte come le patatine, le comprate la nipote di questa amica, mi ha detto che erano anche buone. La nipote se le ha mangiate, tipo le funzi, sì, fatte con questa paprika sopra, ma lì ti facevano le cavallette caramellate con un, non so che cavolo ci mettevano, crema di riso, poi non parliamo cosa c'era di riso, già tutto quello che ti facevano tipo insalate di riso, però chissà cosa c'era in mezzo, buh. Io la roba quando, a parte non mi piace perché sono schizzinoso di natura, però la cosa devo sapere quello che mangio, non è che vado di lì e mi ci butto in mezzo, però il futuro dice della razza umana sanno gli insetti, mamma mia, io mi preferisco un bel panino con mortadella o col salame, altro che cavalletta e basta, vai, o forse piacevano a te Carlo queste cose. No, negativo, io gli insetti cotti, forse tra tutti gli insetti una cosa che mangerei se fossi proprio affamato, obbligato a mangiare le cavallette, perché la cavalletta è uno dei pochi insetti che mangiano, per dire, non altre cavallette o altri insetti, ma mangiano solo vegetali, capito? Quindi alla fine dici sto mangiando sì un insetto che però mangia solo vegetale, capito? Invece se tu vai a prendere le larve, già la larva è puzzolente, quindi non, oppure se vai a prendere altre tipologie di insetti che magari sono anche carnivori e mangiano altri piccoli insetti eccetera, già lì non sai cosa c'è alla fine. Forse se fossi sicuro sono cavallette fritte o caramellate, forse magari l'assaggerei, giusto per assaggiarla, però in effetti sono un po' ripugnanti, anche se come hai detto tu Robe, dice che quelle saranno il futuro delle proteine, magari non mangeremo più carne perché diciamo produrre carne inquina molto perché ci bisogna di tanta acqua e per l'irrigazione, insomma, mangimi per il bestiame, eccetera. Invece le cavallette solo erba, capito? Vai, Roberto. No, no, tu lascia a parte che io le odio, mamma mia, neanche a vederle, sono un insetto fastidioso per le mie cose. Ma poi quando entravi di lì dentro, io sono una persona molto educata e rispettosa, allora ti venivano queste ragazze belle, anche di bella presenza, per dire non so, cinesi, non so di che zona erano, diciamo orientali, tutti alcuni vestiti tipici, e ti davano questa frutta secca, per dire la banana, noi l'abbiamo già assaggiata, la banana e altri tipi di frutti, però poi tra le altri che dice che cos'è questo, e tu facevi finta di mangiarlo e poi lo buttavo via, perché te cos'è, non mi fido. Poi assaggiato la banana, non so se avete mai assaggiata la banana, quella che fanno tipo secca, non so con cosa la fanno, che ti mangi una fetta di quella banana come ti ha mangiato tre banane fresche, talmente è concentrato il gusto. Io di cose strane ne ho visto, perché parlando di cucina asiatica, sono stato a cosa, a Sydney, a Brisbane in Australia, e a Sydney addirittura c'è un grande quartiere cinese, ma enorme, capito, dove è pieno di negozi, ogni due passi trovi un ristorante, e lì lo stesso ci sono le vetrine, e vedi i cuochi che cucinano, capito, dalla vetrina, i locali pieni di gente, ma non solo asiatici, anche turisti, gli stessi australiani che mangiano di tutto, però a me non mi attira quella roba lì, anche perché poi in Australia trovavi di tutto, c'è carne buona, c'è pesce, quindi ho detto perché privarsi di queste prelibatezze e andare a mangiare cose strane, tipo gli insetti, no, io punto sempre sul sicuro. Guarda, io ti dico una cosa, ho conosciuto, siamo diventati amici, questa persona era direttore di Rai 3 dei documentari, molto conosciuto, non dico il nome perché non si fa pubblicità, ha girato tutto il mondo, ma proprio già è una persona una mente superiore, cosa ti racconta, questo ha visto tutto, dice io ho mangiato tutto, qualunque cosa che c'è sulla terra io l'ho mangiato, da iniziare dalla foca a finire alla balena, a finire all'orso, a finire ai serpenti, dice qualunque animale che si muova io l'ho mangiato. È stato tre mesi con gli squinesi, mi stava raccontando quando mangiavano di lì, perché gli squinesi è tutta roba essiccata e cose del genere, mi ha raccontato certe cose, e questo e l'ho portato a mangiare io in un agriturismo, ho detto questa è un'altra cosa, quello mangia tutto, qualunque cosa gli dai, proprio non ho mai visto una persona, e lui dice io ho assaggiato tutto, anche cose magari che non è che mi piacevano, potevo dire no questa non mi piace, però l'ho assaggiato, è uno di quelli che se tu gli dai un tocco, te lo prepari bene, te lo pulisce e se lo mangia. Non so se abbiate mai visto la trasmissione Pechino Express, io l'ho guardata qualche anno fa, proprio all'inizio quando la faceva la Rai 2, su Rai 2 e venivano trasmesse quelle puntate, e praticamente erano dei viaggiatori improvvisati che dovevano attraversare nazioni tipo Thailandia, eccetera, no? Tutti i paesi asiatici, e dove dovevano fare delle gare, e molte di queste gare erano proprio sul mangiare queste cose strane, insetti, cose così, e ho visto gente rimettere in quelle diavolo di trasmissione. Però quello che mi stai dicendo sì, tu è vero, quando sei un inviato così giri tutto il mondo, alla fine devi proprio assaggiare di tutto, se no non completi neanche l'esperienza, capito? Una volta che vai fuori così e vai in paesi, posti diversi, diverse culture, diverse abitudini, è ovvio che trovi cose strane da mangiare, se sei aperto così almeno le assaggi, io farei lo stesso, assaggerei tutto, poi tanto dici tanto qua ci sono adesso, poi domani non la rimangio questa cosa, anche a me è capitato di mangiare stranezze eccetera, però capito, bisogna provare di tutto. Vai Gianni. Gianni è andato a mangiare un paio di cavallette fritte. Le abbiamo fatto venire la fame, Robert. E si deve essere spostato a mangiarsi qualcosa, a mettere qualcosa sotto i denti. No, io sono tradizionalista. Adesso l'altro giorno stavo parlando con un amico, anche lui gli piace mangiare questo sushi, tutte le cucine, un po' da tutte le parti. Ha detto che hanno aperto, allora c'è, vabbè, la cucina messicana greca lo sappiamo più o meno tutti dove si trova, messicana vicino a Cavalcavia e la greca vicino a via Usai, quelle zone lì. Poi c'è la cucina spagnola in via Enrico Costa, a fianco alla cucina spagnola c'è un ristorante rumeno, gestito da dei rumeni, una madre, c'è una felice, se tu vuoi mangiare lì, dice, veramente buona. Io sono andato in paesi dell'est, però ti ripeto, accolto benissimo, amici carissimi, mi hanno fatto, però certe cose non riesco a mangiarle. Loro mangiano tante carne, tante di quelle torte salate, di cose con molta, non so che ci mettono, tipo burro, burrata, una cosa del genere. Mangiano un sacco di queste cose ricche di calorie, mentre la cucina nostra è diversa. Preferisco l'italiana, l'hanno nominata adesso per l'ennesima volta la migliore cucina del mondo, al secondo posto con la greca, e la francese è arrivata terza. Un attimo, vi dovevo salutare, stavo aspettando a rilanciare, invece ho rilanciato a Roberto. Dovevo farmi le parina a quell'ora lì, io la devo fare alle 8, capito? Quindi mi sono allontanato per quello. Vabbè, dai, ci sentiamo, vi ringrazio per il QSO e vi auguro una buona serata e un buon continuo QSO, dai, ciao a tutti. E a ciao Gianni, mi hai sentito, buon tutto, dai. Vai Carlo. Ciao Gianni, ci sentiamo nei prossimi giorni. Buona ricarica alle prossime, ciao, riprendi pure Roberto. Sì, oggi è un argomento culinario, dai. No, ti ripeto, io sono amante della cucina mediterranea, no, la spagnola la posso accettare, anche quella un po' messicana, assaggiata, che è molto piccante, speziata. Andate in questo vicino a Piazza Tola, c'è il civico che ti fa assaggiare queste mini pietate, mini portate, che sono piccoline e sono degli assaggini, tipo come puoi fare una bruschetta, ti mette qualcosa di lì, di tipico, poi ti fa sei pasti piccolini, sei pietanze, non costa neanche molto e ti fai un pranzo completo. Parti da sì, puoi metterne 9, 12, ti puoi scegliere, e c'è un po' una cucina internazionale, sono piccole porzioni, tipo assaggini, però ti diverti, dai, perché ti piace i fagioli messicani, tipo il film, Bud Spencer, Terence, e ti fanno una piccola portantina così, poi ti piacciono tipo il, come si chiama, i bastoncini di pesce, te li fa con questa roba, con questa pietanza, con del pane sopra, sono diciamo particolari, dai. Poi ci sono anche cose molto particolari che non ho gradito, infatti non le ho prese io, però se uno vuol provare cose diverse, ma ti ripeto, io quando vado a mangiare devo sapere quello che sto mangiando e cosa c'è dentro. Ti do a te Carlo. Sì, hai detto bene, prima che hai parlato del ristorante greco, quello vicino a via Usai, l'ho visto, e io qualche anno fa a Redcliffe, nel Queensland, in Australia, mi avevano portato degli amici a mangiare in un ristorante greco, cucina greca, un bel ristorante dove c'era uno che suonava quella sorta di mandolino, proprio cantavano, suonavano pure sirtaki, tutte quelle cose là greche, e c'era un sacco di pietanze, usano molto formaggio fuso, yogurt nella cucina, comunque cose molto molto buone, cose che avevo gradito, mi ricordo mi era piaciuto, infatti qualche giorno che sono in giro così voglio provare, adesso che ho visto dov'è quel ristorantino greco, a vedere se hanno roba buona o se diciamo di quelli un po' improvvisati, capito? Però a volte a me mi piace anche andare all'avventura, ci passerò sicuramente quando mi capita a provare a mangiare qualcosa di greco, perché è ottima come cucina, capito? Solo che la nostra è molto meglio, è più varia e c'è di tutto e di più. Certo, bene, più variegata, c'è di tutto, di lì magari ci avrai qualche spazio, qualche tipico pasto, dai, alimento tipico, ma noi ne abbiamo centinaia di cose, inizi dal Trentino a finire alla Sicilia e alla Sardegna, ogni regione ha il suo alimento tipico, conosciuto da tutte le parti, è unico, poi siamo eccellenti sulla pasta, cioè abbiamo una varietà di paste che nessuno ce li ha, facciamo in tutti i modi la pasta, dalla carbonara finirà la pasta al forno, carciofi, la pasta, spara, cioè abbiamo una varietà di cose, di pietanze da inserire nella pasta che nessuno al mondo, l'Italia si può vantare di questo, la gente non lo sa, noi abbiamo una varietà di flora in Italia che nessuna parte del mondo esiste, come diversificazione di piante e così anche di animali, abbiamo una varietà impressionante perché abbiamo un clima particolare dove ci permette dall'orso a finire a cosa ti posso dire, a che animale c'è, il serpente, dai, per dare delle cose così nel campo della flora siamo nel mondo, non esiste una località che ha tutta la varietà di flora che abbiamo in Italia. Ho visto un documentario, ho seguito, per cui anche la cucina, noi da iniziare a mangiarti gli asparagi a finire al tartufo, ai funghi, non c'è nessuna parte del mondo con la varietà, perché abbiamo un clima mediterraneo, c'è il mare, la montagna, la collina, per cui si diversificano anche i frutti della terra. Beh. Sì, hai detto bene. Comunque, secondo me la cucina migliore è quella italiana, non perché io sono italiano, noi siamo italiani e quindi ci dobbiamo vantare, però come varietà, come tante pietanze cucinate, la stessa pietanza in tanti modi. Seconda, secondo me, è la cucina francese. E poi, se vuoi dirti, non lo so, io ho apprezzato quel ristorante greco che avevo provato, come ti ho detto, tanti anni fa, però non è che perché vai in un ristorante una volta conosci tutta la cucina greca, può darsi pure che magari sia buona. Invece i francesi cucinano un sacco di prelibatezze, capito, anche di carni, ma le verdure le fanno in mille modi, già sono anche loro abbastanza capaci, così con la vinificazione, insomma, tra Italia e Francia si fanno la guerra, però noi abbiamo più varietà, capito, perché noi andiamo dal meridione dove produce vini molto molto alcolici, quindi più liquorosi, più al Piemonte che magari ti fa lo spumante che magari vai a competere con quello francese, con lo champagne, capito? Però diciamo che sono tutte e due valide come cucine, sia quella italiana che quella francese, anche se quella italiana è molto meglio, perché questo lo riconoscono un po' in tutto il mondo, no? Non è perché lo stiamo dicendo noi, capito, Robe? Sì, sicuramente, infatti io dietro la cucina italiana ci metto la Francia. Io ho mangiato anche da altre parti, sono andato, ti ripeto, in paesi dell'est, io devo dire, in certi posti, io sono andato in Macedonia, in Albania, e devo dire, a livello di frutta e di coso, di ortaggi, ci fanno 10 al vero come qualità, perché lì non usano ancora, non c'è la grande produzione, trovi il piccolo agricoltore che ti fa la piccola produzione, ma io ho mangiato i citrulli con la buccia, e quando li mangi qua danno i citrulli con la buccia, sono tutti talmente trattati, eccetera, e i frutti, le ciliegie, era un altro gusto, la lattuga, cose, altri gusti di quando ero bambino, le pesche, era un altro tipo di qualità. Sono capitato poi a mangiare, mi hanno ospitato, però io non ho mangiato, infatti ci sono di lì, è una mentalità diversa, l'ospite viene prima di tutto, sono andati loro convinti che io mangiassi la carne, ci hanno portato a mangiare il capretto, sono preso loro con diversi amici. C'era l'allevamento di lì, questo piccolo agriturismo, sceglievi l'animale, te lo cucinavano, ma proprio bello come lo facciamo noi il porcetto, però io ho detto non mi dispiace, allora a me mi hanno fatto le cose che mangiavo io. E poi un'altra volta, sapendo che io non mangiavo carne, mi hanno portato a mangiare pesce, da uscire dagli occhi, ma proprio diverse varietà di pesci, prezzi allucinanti. Così in Austria mi sono entrato con la fame e ne sono uscito di più affamato di prima, crauti, tipo minestre, cose, pane inesistente, c'erano infatti non ricordo benissimo, e ti dico, quando vai in cose in Italia è tutta un'altra musica. Sì, sì, hai detto bene, in Austria forse sono bravi a fare i dolci un po' allo passo, capito, i dolci già li fanno bene, cioccolato eccetera, ma non solo strudel tedeschi, capito, già ci fanno cose deliziose a livello di dolci, poi per il resto gli diamo 10 a 0 noi italiani. Stavo notando, Robert, per cambiare discorso, se no poi alla fine ci viene troppa fame con questo argomento, che sta rinforzando un po' il ventuccio, io già lo sai com'è la mia antenna, ogni tanto gli butto l'occhio, però dondola un pochettino, ma già è sempre là. E tu con le antenne, col vento, come sei messo? Guarda, facendo le corna alla Mantova l'altro giorno, qualche settimana fa, che c'era quel vento bello opposto, non è il record di intensità, perché l'ho visto anche piegare, sì, qualche volta la Mantova, legge molto bene, perché è equilibrata, ho messo doppio ralla, diciamo, ha lavorato bene l'impianto, mentre l'antenna verticale che uso per le bande HF, quando si fa a 45 gradi, è una canna da pesca, una delle antenne, i dipoli oscillano, e poi c'è un'altra specie di antenna, una call web che si chiama, quella lì oscilla. Ma tu vedi come si fa quella della canna da pesca, può essere un'antenna leggera, perché è una canna da pesca con l'esterno un pezzo di filo, ma tu vedi, si piega a 45 gradi, sembra che si stia aspettando da un momento all'altro. Speriamo che il materiale regga, che siccome sono in vetroresina queste antenne, magari col tempo lo smusi non li faccia qualche piccola fessura, poi magari si spezza del tutto. Speriamo bene. La Mantova, grazie a Dio, sono dal 2005, non ho mai fatto nessun lavoro, ho usato materiale di qualità, sia per i tiranti, i registri, eccetera, eccetera, il cavo marino, diciamo, cima marina con i regolatori, ma ancora sta bene, ho fatto un bel lavoro, su un palo molto grosso ed è molto equilibrata. Poi c'ho l'altra, quella per la VHF, anche quella è un'antenna impegnativa, la vedo che si muove, ne ho sentito che se ne aspettano tante, la mia è nuova, speriamo che duri qualche anno, dai. Ok, tu c'hai la J-Pol, mi sembra, confermi. Io ho la J-Pol, che a dire la verità l'ho osservata durante una giornata di vento forte, praticamente essendo a forma di J, c'ha due stacchi, no, che comunque la congiungono alla base, e quelli la rinforzano parecchio, infatti flette dalla parte, diciamo, del vento, ma non più di tanto, capito? Poi anche io ho usato un bel palo di sostegno bello grosso, capito? Non ho usato quel classico diciamo tubo, l'antenna telescopica, che ma è autocostruito il tubo telescopico, ho usato del tubo da 1,5 grosso, al quale avevo fatto i fori, avevo saldato i bulloni, i dadi, capito? E quindi l'ho fatto così. Quello che ho alla base, che l'ho fissato su tre bracci che escono dal muro, capito? È bello stabile, capito? Ho visto che è tranquilla l'antenna, flette un pochettino. La speranza di tutti noi è chissà quanto durerà così, perché già lo sai, la mia antenna era nuova, e quindi spero che ci duri il più a lungo possibile, come del resto spero, quello che sperano tutti, insomma. Vai, Robè. È certo che sì, te lo auguro, però purtroppo il tempo si mangia la pietra molte volte. Speriamo bene, dai, che sia, esista almeno il più possibile, in modo da evitare di metterci di nuovo mano. Vanno sempre manutenzionate le antenne, però la mia non è semplice lavorarci su. Ho cambiato, siccome ho fatto il catrame sopra, siccome è appoggiata dove c'è la casetta dell'ascensore, la mia, messa di lì, ho tirato via due tiranti e ho dovuto mettere nuovi e spostati, perché stavo facendo il catrame, e ho avuto la buona idea, diciamo, guardando da un'altra parte, le ho messo alla base dove c'è il tirafondo, diciamo, il tassello quello grosso, gli ho messo la catena, la parte bassa, in modo che anche l'usura, se si sfregamenti e coso, è molto meglio che lasciarlo direttamente sulla cima, e ho fatto, diciamo, un bel lavoro, ho regolato bene quei tiranti e sono più che soddisfatto. Però, come hai detto tu, il vento stiamo aumentando sempre, ogni tanto si sente qualche tromba d'aria. Prima, quando eravamo più giovani, bambini, raramente in Sardegna si sentivano delle trombe d'aria, invece sta capitando abbastanza spesso. Ok, di nuovo a te, Carlo. Sì, hai detto bene, purtroppo questi eventi un po' estremi del tempo prima non c'erano così, e adesso arrivano all'improvviso e fanno un sacco di danni, capito? Quindi vabbè, anche io ogni tanto gli do un'occhiata, controllo se anche noi abbiamo i muratori ancora con la 110 che stanno facendo, hanno fatto solo metà, diciamo, del capotto termico, la parte interna del palazzo, diciamo il 50% del palazzo, poi dovranno lavorare sul tetto, anche se il tetto è da da rifare, però dove ho l'antennaio fortunatamente ho un piano di calpestio ed è il palo fissato su una casetta che c'era, era un vecchio vaso d'espansione dell'impianto che avevamo prima di riscaldamento, dove da una parte c'è l'antenna centralizzata del condominio e negli altri lati di questa casetta non c'era niente, quindi ho usato quell'opposto e praticamente le antenne ce le ho giù e io sono al di sopra dell'antenna TV del condominio, capito? Però non creo TVI eccetera, perché essendo centralizzata, se avrei avuto anche io i disturbi del TVI, non ce li ho. L'unica cosa, che forse te l'avevo anche accennato, che entravo nelle casse di un computer su alto piano, capito? Praticamente sentiva la mia voce, però forse usavo troppi watt, capito? E adesso mi sto limitando a usare i 4 watt canonici e non mi hanno detto più niente, per cui sono tranquillo così. No, è giusto così, dai, poi arrivi talmente forte, te l'ho detto. La stazione numero 1 si è diventato tu a Sassari, prima era Claudio, poi come si è allontanato lui, non per falsa modestia o per presunzione, ero diventato io, parliamo come copertura eccetera eccetera, adesso sei tu che hai scavalcato a tutti, sei numero 1, te l'ho detto, c'è una posizione è assolutamente invidiabile, copri da tutte le parti, c'è un segnale qua, arrivi 9 più 50, per cui non posso dire niente, anche con 4 watt non emetti 20, da me sei sempre fortissimo. Poi ho visto i rapporti che ti danno, anche Muros arrivi fortissimo, dice che quello che arrivi più forte di tutti sei tu, poi c'è Claudio e poi ci sono io, considerando che tu sei più lontano da Claudio stai arrivando che è una bomba. Io faccio benissimo al Gheno, anche nelle bande radioamatoriali mi danno dei rapporti eccellenti, qualcuno qualche volta non riesce a sentire quando per dire parlano con portatili. L'altro giorno c'era uno in macchina dentro al Gheno, all'interno del coso, tutto tranquillo e perfetto, lo ascoltavo, gli altri non lo sentivano più, infatti mi dicevano ma sta parlando, io riuscivo a sentirlo. Questo al Gheno sono molto favorevole, vedo assolutamente Capocaccia, il faro di Capocaccia la notte, vedo dove c'è quelle luci, quella collina, come si chiama, Monte, dove c'è Radio Cognome, come si chiama quel monte? Monte Doglia. Proprio lo vedo di fronte, tutto illuminato. Quello è alto, sarà 500 metri, quanto è alto quel monte? Con precisione non me lo ricordo e forse non l'ho neanche mai chiesto, so che è un po' altino, ma non credo che sia 500 e sicuramente sarà intorno ai 300-350, non credo che ci arrivi a 500 lì, non sono molto, considera che si parte dal livello del mare lì e quindi forse sarà un 300 metri, 320, però non sono sicuro, considerando altri diciamo monti che sono in quella zona più di quella quota, non credo che abbiano, capito Roberto? Ma sono 300, mi sembra un po' bassino 300 perché illumina tutto, cioè il più alto Capocaccia mi sembra sia 250 metri più o meno, una cosa del genere, ma lui è molto più alto. Monte d'Accordi. Monte d'Accordi cosa c'entra? Chi è che ha detto Monte d'Accordi? Chi è avanti? Monte d'Accordi è a Porto Torre. Magari più alto Monte d'Accordi. Ma non lo so, guarda, io da casa mia quello che illumina il monte che illumina tutto, senza considerare Usilo e altre parti, è quello lì di Alghero. Dove c'è il coso? Il radiogoniometro di avvicinamento. Monte Mario. Che è Antonio Grode, tu sì. Antonio, tu sì. No, non si può fare proprio nessuno scherzo. Buonasera, ben sentiti. Bene, carissimo Antonio, ogni tanto ne dici, allora, non so perché se ti ho riconosciuto tanto, non tanto dalla voce, dalle battute, sei unico e irripetibile. Ho detto, chi sei Antonio? Non ci dite Monte d'Accordi, ma non metto neanche Monte Oro, ho detto, no, mi dite Monte Oro oppure Monte Bianchino. Rosello, ciao, ben sentite a tutti e due, dai, vi stavo ascoltando piacevolmente, ero qua in studio, mi stavo facendo un paio di cose, non volevo intervenire, ma era troppa la cosa, quindi... prendete pure, comunque tanti auguri a tutti e due per un nuovo anno. E anche a te, Antonio, fatti sentire ogni tanto, detto passa quando sei in zona, ci andiamoci qualcosa, dai, un aperitivo. Avanti Carlo per Antonio, un grandissimo personaggio della frequenza e anche di altre. Ciao Antonio, buonasera Carlo da questa parte. sì, anche io ti sento Antonio, un po' basso di radio, non so tu da dove stai trasmettendo, se sei in macchina o in postazione fissa, però Radio 4 e il segnale non l'ho controllato, a dir la verità. Se fai un passaggio sicuramente poi ti do un altro riscontro. Ma ho ben sentito Carlo, io mi sono sempre distinto a differenza di Roberto, perché ho sempre delle ottime, anche lui ha delle ottime radio, però trasmetto sempre male. La cosa bella è quella, capito? E io zona via Rockefeller comunque. Ah ecco, sì sì sì, il segnale Santiago 8 qua. Non so che antenna stai usando, se sei in alto o in basso, e magari dipende anche dai watt, però ti sento abbastanza bene. Negativo, antenna in terra, antenna di macchina in terra, giusto perché ancora la possibilità di costruire una stazione lontana, dai. Comunque riprendete, non vi volevo assolutamente disturbare, ben sentiti, vi sto ascoltando piacevolmente. Tanto non ci disturbi, partecipa anche tu, tanto stiamo parlando di cose generalizzate, dai, un po' di tutto, abbiamo iniziato a parlare del mangiare e ci siamo usciti a che cosa? Alle antenne, alle posizioni delle antenne. No, ti ascolto un po' bassino di radio, te l'ho già detto altre volte, segnale 9, radio 5, e rispetto a Carlo che arrivava a 9,50, comunque ti tiro fuori benissimo. Che radio è questa, Antonio? Guarda, ti è rimasto di tutte le apparecchiature. Tieni presente Carlo che Antonio è un radioamatore, per cui dobbiamo darle pieno rispetto alla persona. Fate gli scherzi, non c'è problema. Che radio sta usando, Antonio? Non so cosa sia successo, aspetta, però vi siete sovramodulati, comunque ti sentivo molto basso, e riprendi un attimino Roberto, ho capito tutto, ho copiato completamente quello che hai detto, però con difficoltà. Addirittura, perché mi senti basso di segnale? Ma è successo qualcosa nella mia radio, ma comunque arrivavi, c'era lo Smith a fondo scala, però la radio è proprio a zero, ma è un problema, deve essere mio, dai. Spero che sia problema tuo, diciamo, perché questa radio ce la butto, dai, spesso che stia andando bene. Carlo, ho avuto problemi, tu mi hai ascoltato bene o ho avuto interruzione? No, nessuna interruzione, forse magari è la sua, magari dirà, perché qua io ti ho sentito sempre, quindi magari forse l'antenna è messa in posizione così interna e magari non ha perso un po' il segnale. No, è la radio, sicuramente la mia radio che ha problemi, dai. Rimango in quel Rix, vi ringrazio e ci sentiamo al più presto. Altro, forse hai avuto qualche problema, si sente un rumore fortissimo sotto, non so se ti abbia sovramodulato qualcuno. Ma è possibile che abbia problemi io, dai. Ti ringrazio ancora, ciao, sicuramente ho le stazionarie a 1000, quindi non continuo. E altro poi, quando vuoi, se ti piace qualcosa, sentiamoci su altre parti, dai, che c'è già un bel gruppo da 525, quando vuoi. Ok, ti saluto, buon proseguo e buon tutto, poi se sei in zona e passa, mi fa piacere Anto. Avanti Carlo per i saluti per Anto. Ciao Antonio, ci sentiamo magari in condizioni migliori, sicuramente, non avrai problemi. Ciao, ci ha fatto piacere se sei entrato. Ci sentiamo alle prossime. I fuochi d'artificio li senti, Robè? Non so, farò, vabbè, qua sono all'interno, sono una stanza interna. Ma fuochi d'artificio temporale o scoppi di altro? E penso che sia qualcuno che abbia dato fuoco a qualche quei così fuochi già pronti, no? E sicuramente piazza le segni, il vento mi sta trasportando il rumore sin qua, capito? È durato una trentina di secondi, ma forti, si sentiva forte. Magari il vento è da questa parte e a te non ti è arrivato. Vabbè, c'ho doppie finestre chiuse, sono all'interno della stanza, poi la stanza è risulta all'interno di un'altra stanza, perché c'era un terrazzo grande, l'ho chiuso, ho fatto un altro salone di lì, per cui ci sono vetri, doppie passate di vetri, per cui a meno che non sia una bomba, non sento niente qua dentro, sono assolutamente isolato dall'esterno, almeno in questa stanza. No, ho visto i botti belli, li hanno fatti belli, diciamo, rispetto agli altri anni, neanche vicino. Il 31 notte al tappetino, non so se l'hai visto, i bei fuochi d'artificio, qualcuno si è divertito, verso mezzanotte qualcosa, la mezzanotte abbondante, dai. Ho visto c'era qualche gruppetto, è arrivato qualche rumorino, sì, eravamo da mio cognato, che lui è ancora più in alto di me, e si vedeva tutto bene. E non so se tu hai sentito rumori la notte di Capodanno, o hai lavorato. No, no, ero in ferie in quel periodo, già era a casa, sì, ho sentito, e qua si è sentito di tutto e di più, nonostante ci fosse il divieto del comune, no, però la gente se n'è fregata, chi doveva festeggiare in quel modo, anche sotto casa mia, qua di fronte. ho una famiglia di napoletani, no? Lui aveva la bancarella, tanti anni adesso in pensione, vendeva lampadari, cose del genere. C'è il figlio che tutti gli anni questi arriva con gli amici a casa del padre, si mettono in strada, capito, vicino ai cassonetti poi della spazzatura, e danno proprio, fanno lo spettacolo pirotecnico, comprano di bustoni di roba e poi gli danno fuoco, ma i fuochi d'artificio lì dalla finestra li vedo perché si mettono giù in strada, capito? Non ho neanche bisogno di fare rumore io, perché ce li ho, e tutti gli anni, io da quando abito qua, ormai ci abito più di 20 anni, tutte le volte fanno questa roba, però va bene, se lo fanno con sicurezza e non hanno mai causato niente di danno, si mettono lontano dalle macchine, ho visto che hanno anche un secchio dell'acqua con la spugna, perché molte volte rimangono accesi, ho visto che li bagnano e li spengono così, capito? Quindi sono esperti, ovviamente, no, allora, a me piacciono, però bisogna pensare anche agli animali, prima non ci pensavamo, io andavo sempre a mio cognato, lui abita in campagna, lui era famoso in quella zona lì, a parte che non c'era niente vicino, c'erano, abitavano completamente fuori dalla città, ma lì venivano la gente delle case, diciamo, delle villette vicino, perché era una tradizione, lui li vendevano questi qua, poi ne portava qualcuno, magari di quelli che teoricamente non si potevano usare, e ogni anno era una guerra. Lui poi, appassionato di tutte queste cose, perché le vendevano, c'aveva una cartoleria all'epoca, e le portavano, adesso magari ci sono controlli molto più decisi, dai. Però prima qualcuno di contrabbando riusciva a portarlo via, dice, per concludere, ma era uno spettacolo, durava mezz'ora, di tutto di più, poi dice, proviamo questo, proviamo quell'altro, proviamo quello, e noi andavamo tutti e si sentivano i vicini, poi facevano gli applausi, bello, e tipo quando fa uno spettacolo pirotecnico, e lui si divertiva lì. Adesso non ne stiamo più facendo, a parte che lui c'ha anche animali, adesso si terrorizzano, c'ha due gatti in casa, abita a fianco a me, a fianco a dove abito io, e i gatti erano nascosti sotto, sono degli animali che si terrorizzano, purtroppo una volta all'anno bisogna accettare anche questo, sperando che qualche animale non ci rimanga a secco. Andiamo a te, Carlo, avanti. Sì, purtroppo lo so, gli animali non tutti sopportano questi rumori, ci sono magari i cani, quelli dei cacciatori che sono abituati agli spari e quelli non soffrono, però la maggior parte degli animali, cani, gatti, vanno proprio in panico, e io li ho visti proprio nascosti sotto i divani, sotto i letti o sotto le cantine, se ne vanno a ripararsi, poverini, fanno anche pena a vederli e si spaventano parecchio. Sì, hai detto bene. Sì, qua lo stesso, quando questi napoletani qua fanno lo spettacolo così tutti gli anni a Capodanno, si affacciano i vicini, tutti bravi, fanno effettivamente così, perché è praticamente una sorta di spettacolo, ma ci stanno anche mezz'ora a sparare, a fare queste cose colorate, ma fuochi d'artificio veri e propri, salgono, non so quanti metri salgono quelle cose lì, colori poi che cambiano, insomma, ma devi essere anche un po' esperto a maneggiare quella roba, perché non è da tutti, io per esempio non ne ho mai usato di cose del genere, non ne ho mai fatto, mi piace vederli, ne ho visto bei spettacoli pirotecnici anche a Parigi il 14 luglio, che là c'è la festa della presa della Bastiglia, per loro è festa nazionale, fanno uno spettacolo eccezionale anche ad Euro Disney, quando hai due bambini, mamma mia, è una cosa da paura. E vabbè, dai, Robè, mi sa che si è fatto tardino, le 8:30, ora di cena, e mi stanno reclamando, ti ascolto per il finale e poi ce la risentiamo, perché sono le 8:30, cercherò di pranzare, stare un'oretta sveglio, perché domani c'ho l'ultima mattina da fare e quindi preferisco mangiare un po' a un orario presto, in maniera tale che quando me ne vado a letto un po' digerito. Ciao, dai, ti saluto, io ti mando ancora un pochettino, magari vado da altre parti, è stato un piacere ascoltarti, come al solito, sempre belle discussioni, dai. Ti auguro buona cena, buon lavoro per domani, dai. Ciao, alle prossime, ciao Carlo. Ciao Roberto, ci sentiamo alle prossime, è un piacere anche per me a sentirti ogni volta. Ce la risentiamo, ciao anche a chi in ascolto. Buonanotte Roberto, alle prossime.